Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Siamo qui su Ciao Como Radio e oggi vi porterò nel fantastico mondo del tennis. Sono Gas e mi smentisco rispetto a settimana scorsa quando vi avevo detto che avremmo fatto un viaggio fantastico dal 1991 al 2018 attraverso la letteratura. Invece ho deciso che faremo un viaggio attraverso quello che mi rappresenta, le mie passioni, e quindi oggi parliamo di tennis, che è stata un po' la passione di quando ero piccolo e che mi ha portato fino ad oggi. Oggi la conosceremo attraverso la letteratura e attraverso il giornalismo e attraverso anche la musica. Sono andato a curiosare in qualche archivio e ho trovato delle canzoni davvero divertenti, alcune, e ve ne proporremo un po'. Oggi partiamo dall'inizio, dagli anni 80, da forse il personaggio che molti di voi conoscono di più, ed è John McEnroe. Il libro che vi voglio leggere, infatti, sono due estratti molto brevi di un libro di Tim Adams. Tim Adams è un giornalista inglese e io questo libro ve lo consiglio perché è molto corto, quindi lo leggete in un weekend, non vi dà neanche tanto fastidio, ma è davvero davvero davvero interessante, perché la storia di John McEnroe è davvero interessante. Un personaggio al di fuori degli schemi, un personaggio nato per stare sul campo da tennis e quando stava nel campo da tennis invece impazziva. John McEnroe era nato per diventare il numero uno del mondo di tennis, ma una volta che lo è diventato non riusciva più ad esserlo, si sentiva solo. Allora, in questo viaggio che parte da John McEnroe e arriverà fino ai giorni nostri con quello che considero, diciamo così, il campione numero uno di tutti i tempi, quel Roger Federer della vicina Svizzera, che ha cambiato un po' le regole del gioco e rimesso l'asticella della qualità del tennis in alto, con la forza fisica contro la forza fisica di Nadal, la resistenza e la precisione di Djokovic. Vabbè, ma non vi annoio troppo in questa serata e partiamo con le parole di Tim Adams e partiamo proprio dal primo capitolo, che si chiama così, Il giorno perfetto, e si apre con una citazione di Peter Fleming, un compagno di doppio di John McEnroe. L'ho visto uccidere Golia con una cerbottana e vincere tornei solo per la sua presenza, solo per il fatto di essere John McEnroe. Nell'estate del 1933 ho trascorso quasi tutta una notte piovosa a fare la fila nel sud di Londra per vedere John McEnroe, che giocava contro il tennista americano non testa di serie, Bill Scanlon, tra gli ultimi 16 di Wimbledon. Per passare il tempo mi ero portato un paio di libri da leggere. Uno era Alzate l'architrave, Carpentieri, di Salinger. Avevo finito da poco Il giovane Holden e avevo elaborato la mia teoria piuttosto articolata. Da quel che ricordo, in base alla quale McEnroe era di fatto un Holden Caulfield dei giorni nostri, incapace e restio a crescere, dotato di un talento complesso, con molti conflitti risolti e costantemente in lotta contro le falsità delle autorità sportive, i guardalini addormentati e gli organizzatori di torneo con tanto di walkie-talkie. Così credo di aver portato quel romanzo per una sorta di strano omaggio privato. L'unico elemento a mia difesa è che avevo 17 anni, o se non altro, perché credevo fermamente che sarebbe stata una buona prefazione per la partita del giorno dopo. Mentre ero là a leggere in quell'alba grigia lungo Somers Road, sono stato colpito da un passo in particolare di Salinger. Stava tentando di descrivere l'idea di perfezione nella vita di uno dei suoi personaggi, e per farlo aveva pensato una partita di tennis. La perfezione, diceva, è un'emozione simile a quando qualcuno a cui volete bene vi viene incontro con un grande sorriso dopo tre duri e gloriosi set tennistici e vi chiede se avete visto il suo ultimo colpo. Oggi come allora, questo mi fa pensare alla sensazione che John McEnroe ricercava instancabilmente e che a volte riusciva a trasmettere con il suo modo di giocare, una sorta di euforia istintiva l'aveva raggiunta in alcune partite delle sue partite, quelle contro Bjorn Borg, e in particolare nella sua clamorosa sconfitta del 1980. Ma 3 anni dopo, all'età di 24 anni, quando il suo rivale storico si era ritirato premuratamente, McEnroe sembrava ancora voler fare di tutto per recuperare quell'euforica sensazione. E questo aveva finito per dargli un'aria più rabbiosa e sconsolata che mai. Non c'erano dubbi che le cose stessero così, anche quel pomeriggio coperto in cui doveva affrontare il prosaico Scarron. McEnroe lo scacciò, in un certo senso sdegnosamente, usando tutte le angolazioni, rimproverando se stesso e gli arbitri, grattandosi la testa, tirandosi sulle maniche della maglietta. Perdeva tempo al momento dei cambi con i lacci delle scarpe, cercando di continuazione di prendere suo agio su un campo da tennis, sempre teso com'era, per quell'unico particolare che avrebbe potuto rovinargli la partita. Uno spettatore con la tosse, un microfono televisivo, eppure... Durante tutto il torneo di quell'anno, che vinse battendo il vanaglorioso australiano Chris Lewis in una finale decisamente in pari, giocò come nella sua vita mancasse qualcosa. Mentre lo guardavo cercare disperatamente una qualche forma di dignità, capivo che ciò che mancava, ciò che era stato tolto a lui, così come a tutti noi, era la grande ricerca della perfezione o della gratificazione che offrivano le sue partite contro Bjorn Borg. Egli aveva bisogno di confrontarsi con un rivale che lo facesse sentire vivo. Una ventina di anni dopo, quando abbiamo parlato di questo durante un'intervista a Chicago, McEnroe si è detto d'accordo con l'interpretazione. Nel 1981, dopo averlo battuto prima alle finali di Wimbledon e poi a quelle degli US Open, Borg ha smesso di punto in bianco di partecipare alle competizioni principali. Per me è stato devastante, e se questo è il termine giusto, chiaramente dopo ciò che mi sono sentito svuotato, perché fino a quel momento tutto era stato emozionante al massimo. Certo, c'erano altri grandi rivali come Land, Connors, ma con Borg era naturale, avevamo personalità e stili di gioco diversi, che non c'era neanche di aggiungere altro, e questo è quello che pensava John McEnroe. Tutti i grandi tennisti, come tutti i grandi pugili, o come i campioni di scacchi, non possono esistere da soli, hanno bisogno di un rivale, di un loro simile che li spinga a scoprire le proprie potenzialità. Quando Agassi è tornato a giocare dopo il suo allontanamento volontario dal tavolo del buffet, a circa 25 anni, Pete Sampras, il suo terno rivale, gli ha mandato un biglietto sincero in cui si diceva contento del suo ritorno. Ogni volta che incontrava Bjorg, McEnroe tentava di convincerlo a tornare a giocare, ma in cambio lo svedese non ha mai dato nemmeno una spiegazione per il suo ritiro. Quando gli ho chiesto come credeva che sarebbero andate le cose una volta che se Borg non si fosse ritirato, lui ci ha pensato un attimo prima di affermare che probabilmente sarebbero entrambi migliorati, sia come tennisti, sia come persone, e che sarebbe stato un gran bello spettacolo, e invece mi sono ritrovato un po' perso. Poi mi sono ripreso e ho giocato probabilmente il mio miglior tennis nel 1984, quando stracciò Connors nella finale di Wimbledon, commettendo solo 3 errori a lui imputabili. Eppure, anche alla fine di quell'anno, non ero per niente felice. C'era quel vuoto e avevo quell'impressione che da allora in poi avrei dovuto fare di tutto da solo per trovare la mia forza e la mia intensità. Ed è interessante questa storia del campione, del fenomeno che ha bisogno del rivale, del giocatore, lo andremo a vedere, del giocatore con cui misurarsi e con cui confrontarsi, dallo stile completamente diverso. È un po' quello che andremo a vedere durante questa settimana, quando vi racconterò la storia di Philip Ussis e quando sentiremo la storia di Roger Federer. Ma cosa succede a John McEnroe? John McEnroe diventa numero uno al mondo e diventa solo triste senza Borg. Ma è diventato quello che doveva essere. Quindi andiamo agli ultimi proprio momenti del libro, con l'epilogo che si chiama Non andateci piano, e sentite come mai i numeri uno devono essere i numeri uno. Molto tempo dopo aver smesso di giocare nella Major League, la leggenda del baseball Joe DiMaggio comparve una volta a un torneo dimostrativo a New York. Nel prepararsi a bordo campo si prodigò in un complicato rituale di esercizi di riscaldamento, tanto che prima di scendere in postazione un compagno di squadra, insieme al denaro per tale esibizione, gli chiese: «Joe, ma perché ti sbatti ancora così tanto? Di maggio non dovete pensarci troppo». «Beh, non si sa mai», rispose. «Magari qua c'è qualcuno che non sa chi sono». E McEnroe fa lo stesso ancora ad oggi nel vederlo dominare i circuiti senior degli ultimi 4-5 anni. E questo è tutto, ora io vi saluto e vi lascio a una canzone che ho scelto per voi. È una canzone di Giorgio Gaber, così dopo questi momenti di serietà tennistica ci andiamo a divertire un attimo con Giorgio Gaber e il tennis. Buonanotte a tutti, grazie di averci ascoltato e ci risentiamo questa settimana con il tennis come esperienza religiosa di David Foster Wallace e un altro piccolo libro sempre sul tennis che si chiama Democrazia e Commercio agli US Open. Buonanotte a tutti da Gas. Ciao. Il paese in una fase delicata, tof, tof, sì, in un periodo di transizione, tof, bling blong, oggi al Parlamento, una mozione, l'avversario si alza e mette lì la sua, una differenza leggerissima. E ta ta ta ta ta ta ta. Dopodiché tutti al tennis. Tof. Tof. Sì. Giocano tutti al tennis. E qui mi incazzo. Eh sì, perché gli piacciono tutte le stesse cose, mica per altro. E i gusti sono tutto. C'è chi gioca a tennis e c'è chi gioca a calcio. Certo, la vera cortina di ferro è lì, nei gusti, le questioni ideologiche, roba da ridere fra gusti uguali. I gusti sono la vera sostanza politica e loro hanno scelto il tennis. Belli, puliti, tutti bianchi, impostato il rovescio, bello, la volée, ma giocate al calcio deficienti! Ci cago io sulla vostra terra battuta. È la rivincita estetica del giocatore di calcio. Tutte le notti me la sogno. Chiudo gli occhi. Un film. Valle verde, meraviglioso. Campi da tennis, sole. Tof. Tof. Un film. Buñuel regista. Si alza in volo un branco di mucche. Lui può. E su quei bellissimi ragazzi abbronzati, dalle mandibole giuste, dai denti bianchi. Su quelle signore assolutamente belle, ma così assolutamente da non arrapare nessuno. Su quei signori eleganti e raffinati, su quelle signore da piccoli cagnolini. Sulle Adidas, sulle magliette con coccodrillino, sugli arbitri con la R francese, 40-30, tof, tof, parità, tof, e le mucche, pla. Parità. Niente, un sogno, tutto pulito, i miracoli non li fa neanche Buñuel, e il tennis avanza, e i coccodrillini dilagano, perché è giusto espandere le cose, così si corre con la stessa maglietta, e il tennis avanza, e non risparmia nessuno, e ora in tutte le fabbriche ci sono i campi da tennis. e si capisce chiaramente che è la base che ha imposto i suoi gusti, praticamente la proletarizzazione. Hop, bella palla, grazie, scusa, siamo anche educati, eh? Hop, scusa, hop, scusa, ma giocate al calcio, deficienti, ma che, hop, scusa, hop, scusa, bellissima la volée vincente nel tornitore Brambilla, hop, scusa, hop, scusa, scusa un cazzo, intendiamoci, non ce l'ho mica con Guido Oddo io, ma perché i figli di Rizzoli non giocano al calcio? Perché non abbiamo imposto i nostri gusti? Ecco, Agnelli centravanti del Torino e Andreotti al Giro d'Italia, questa è la proletarizzazione. Devo aver detto una cazzata. Sì, lo so che nei gusti non c'è più lo scontro frontale. Ma allora dov'è? Bisognerà pur decidere. O avere dei nemici o giocare a tennis. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.